Al Tour con Ivan Basso. Appuntamento in esclusiva con le strade del Tour de France di Ivan Basso qui su Radio 24. Oggi il Tour ha vissuto l'ultima giornata di riposo. Da domani si ricomincia a pedalare verso il traguardo di Parigi. Ivan, ben ritrovato. Beh, immagino un giorno di allenamento, ma anche di messa a punto delle tattiche per questa che è l'ultima decisiva settimana del Tour. Sì, questo giorno di riposo serve sicuramente per recuperare le fatiche dei giorni precedenti, ma anche per pianificare un po' le strategie per le prossime tappe che saranno decisive per la posizione della classifica generale. Ecco, tanta montagna, poi la crono di Grenoble. Quale pensi possa essere il momento chiave di questa settimana, pur tra tante difficoltà ancora da affrontare? Sicuramente le tappe di giovedì, venerdì e sabato sulla carta sono i tre giorni dove si deciderà questo Tour, però per mia abitudine il Tour lo affronto sempre giorno per giorno. Domani c'è una tappa insidiosa nel finale, dopodomani la tappa che arriva a Pinerolo, anche quella con una salita nel finale, una discesa soprattutto pericolosa che arriva nella città di Pinerolo, quindi bisogna affrontare le giornate con la calma, la tranquillità, con l'aiuto dei miei compagni, superare tutte le difficoltà giorno per giorno e ci portiamo avanti. Ti aspetti un'accoglienza particolare da questo sconfinamento del Tour in Italia? Ma sicuramente ci saranno tanti tifosi italiani, e il fatto di così respirare il nostro tifo sulle nostre strade. Poi quella zona è una zona dove ho tantissimi tifosi, tantissimi mi raggiungeranno anche da altre parti d'Italia, quindi il fatto di giocare in casa per quella giornata sarà uno stimolo ancora più grande. Quello che possiamo promettere, che posso promettere personalmente, quello da qui a Parigi, un impegno, una determinazione, una voglia di ottenere il risultato migliore possibile. Sarà anche una grande emozione pedalare sulle strade di Coppi e Bartali, eh? Ma sicuramente, sono insomma, nella leggenda del ciclismo, sono nella storia del ciclismo italiano nel mondo, quindi è chiaro che l'emozione è sempre forte. Una curiosità, tu sei coppiano o bartaliano? Ma diciamo che non essendo ancora nato in quel periodo, per me ho più letto e visto poi negli anni successivi un po' la loro storia, quindi mi viene difficile fare. Io credo sono stati due grandissimi campioni, ho iniziato a tifare dall'era di Moser, sono stato tifoso di Moser e da lì poi ho sempre avuto un corridore da tifare per tutto il resto della mia carriera. Ebbene Ivan, dai, ti sei salvato in calcio d'angolo a questo domandone. Intanto ti ringrazio per la disponibilità e ci ritroviamo domani sempre qui a Radio 24 dopo il traguardo di Gap. Grazie a voi, buona serata a tutti.